Tempo di Sport con Carlo Genta. Oggi è un giorno molto speciale, non solo perché è festa il 2 maggio nell'anno dei 150 anni, ma per A Tempo di Sport è un giorno molto speciale, perché è qui con noi un super campione e un nostro amico, Ivan Basso. Ciao Ivan, grazie. E qui con noi è tornato dal Giro d'Italia, ce l'ha fatta, c'è anche Piero Augusto Stagi, ormai la nostra voce del ciclismo. Ciao. Buon pomeriggio. Bentornato, eh. Grazie. Eri quotato. No, non voglio parlare di scommesse. Stavo per dare la quotazione sul tuo ritorno. Guarda, non la do. Su quello va tranquillo. Non ho mai scommesso in vita mia, perché ho una teoria. O scommetti sempre o non scommetti mai. Io non ho mai scommesso e quindi sono in vincita. Anch'io. C'è anche Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao, ciao Carlo. Ciao a tutti. E abbiamo Ivan Basso, che parlerà con voi, che parlerà anche del suo libro e che vi regalerà anche il suo libro. I primi 10 ascoltatori che interverranno avranno in salita controvento con autografo dell'autore. Okay. Cosa c'è in questo libro? Ma c'è... Partiamo da lì. C'è tutta la mia vita, ci sono 33 anni di così di pedalate, di gioie, di dolori. E ho cercato di raccontare veramente dall'inizio, proprio dalla mia infanzia, dal tempo che la bicicletta era il mio gioco preferito, fino all'ultimo Giro d'Italia che ho vinto. Senti Ivan, io tanto così per scaldare la compagnia, in attesa dei primi ascoltatori, ma so che si sono prenotati già da stamattina, 800 24 0024, sms 349 238 6666. Così, tanto per cominciare è facile, ti voglio fare una domanda banale, scontata, di quelle proprio easy. Come si batte Contador? Ma come si batte? Io credo che la prima cosa che bisogna fare è riconoscere che Contador è l'atleta più forte al mondo attualmente per le grandi corse a tappe, e questo ti permette di lavorare con un'attenzione maniacale ad ogni dettaglio e di sfruttare chiaramente un'occasione favorevole al tour. Però voglio dire, è difficile così qua... così seduto trovare una strategia per poter battere Contador. Io credo che bisogna sfruttare l'occasione giusta e soprattutto riconoscere quello che in questo momento lui è l'atleta più forte al mondo. Io personalmente devo confermare, perché l'ho detto molte volte pubblicamente nelle chiacchierate con Piero Augusto nel corso del Giro d'Italia, oggi lo posso dire, sono veramente felice che questo duello possa esserci. Magari tu lo sarai di meno, io sono sportivamente felice che questo duello ci possa essere con certezza. Ma io sono felicissimo. Quando corri una gara e ci sono al via tanti campioni, è bene per tutti, perché comunque la corsa è prestigiosa, e se perdi da un grande campione, e se vinci la tua vittoria ha ancora più valore. Piero Augusto. La penso come Ivan, ne abbiamo già parlato, no? È come una finale di Champions, Barcellona-Manchester United, Barcellona-Milan, e i grandi incontri, le grandi finali di tennis. Ma sai, io sai che ho la fissa per il basket, no? Io un po' lì sono scricchiolo, ammetto la mia... Allora, sono rimasto un po' ai tempi della Ignis, un po' qualche anno fa. Ognuno ha le sue malattie, però mi viene da dire, il parallelo tra il Giro d'Italia e il Tour de France è un po' come la finale Scudetto italiana, bellissima, con tutti i suoi mille colori, e la finale NBA. La NBA. Cosa dici? Fin lì ci arrivo anch'io. Bravo. Io credo che per un italiano l'emozione che io ho provato lo scorso anno a vincere il secondo Giro d'Italia è stata grandissima. È il sogno dei bambini italiani che corrono in bicicletta, è quella di vestire la maglia rosa, di vincere un Giro d'Italia. Quindi sono due cose diverse. È chiaro che per quanto mi riguarda, dopo aver vinto due Giri d'Italia e due volte podio del Tour, è normale che il sogno della mia carriera è quello di vincere un Tour de France. Se mi permetti Carlo, non c'è questa, sai, il campionato italiano e l'NBA, cioè, la forbice è molto larga. Il Giro d'Italia non è più così il figlio povero del Tour de France. Il Giro d'Italia è sicuramente la gara più dura al mondo, proprio a livello di difficoltà. Il cast è eccezionale, si corrono in condizioni diverse, un po' come dire vincere Wimbledon sull'erba e vincere Flesh and Meadows sul cemento. Sono due cose totalmente diverse. Al Tour c'è sicuramente una posta in palio a livello mediatico maggiore, quindi è più snervante, Ivan credo che me lo possa confermare, a livello mentale. forse come salite, come percorso è sicuramente più morbido, ma il tour diventa difficile anche un cavalcavia, e poi diciamo il cast è sicuramente molto più posizionato in alto, però non c'è questo gap, cioè no, non è dire vincere il Giro d'Italia tu hai vinto una corsa normale. La sensazione è che al tour sia tutto eccessivo, dalla carovana, dalle dimensioni della carovana pubblicitaria, alle medie, alla tensione che accompagna ogni tappa, agli però estremismi. Lo stesso Contador, quando è ritornato per la seconda volta, due partecipazioni, due vittorie, ti dice: io non ho mai fatto una gara a tappe così dura, logorante. Sentiamo lui. Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Piero Augusto. In più c'è anche un fatto, la temperatura del mese di luglio è differente da quella del mese di maggio, e questo fare una salita di 15, 18, 20 km con 38 gradi è diverso che farla con 20 o 22, e quindi ci sono tante. Poi chiaramente dipende dai partecipanti. Se la qualità degli atleti al via e dei possibili vincitori o atleti che lottano per il podio è alta, è normale che è tutto molto più difficile. Meno corridori forti ci sono e diventa tutto più facile. Questa è una regola abbastanza semplice che non ho inventato io. Beh, poi quest'anno il tour con tutti i migliori in gara, nell'anno in cui non ci sono Olimpiadi, non c'è il Mondiale di calcio, forse potrebbe anche essere l'avvenimento sportivo dell'anno, eh? Insieme a questo, a queste cinque sfide Real Madrid e Barcellona che hanno catalizzato l'attenzione di tutti. Ma sicuramente il tour, ci sono almeno 8-10 atleti che possono lottare per il podio, ma io vedo chiaramente Contador e Andy Schleck su tutti, ma proprio perché negli ultimi due anni hanno dimostrato di essere i due atleti più forti, e poi sicuramente ce ne sono altri 6 o 7 dietro che possono lottare chiaramente con loro due per i tre credini del podio. Senti, ti giro una piccola precisazione su quello che hai detto. A livello mediatico il Tour de France è secondo solo alle Olimpiadi e ai Mondiali di calcio. Il problema è che le Olimpiadi e i Mondiali di calcio si fanno ogni 4 anni, il Tour de France tutti gli anni. E questa, scusa, sto facendo un po' di promozione al ciclismo, ma così. Ma sa va san dir, no? Io ti giro invece una prima domanda via SMS di Simonetta, che ne ha già mandate un paio o tre. Tra tutte le tue vittorie, quale ti ha dato più emozione? Ma è quella che deve venire. Quella che deve venire, esattamente, è quella. Ma io credo che in ordine di tempo la vittoria dello Zoncolan dell'anno scorso e del Giro d'Italia è stata molto molto particolare, perché ha dato una svolta importante a questa seconda parte della mia carriera. Però è sempre quella, quando vince una corsa, un atleta che un segnale importante in un atleta che conta molto, è proprio quello: quando vinci non pensare a quello che hai fatto, ma pensare a quella che deve arrivare. Invece togliere una curiosità tecnica, una salita come quella dello Zoncolan così dura è anche tecnica per l'appunto? Cioè è una salita che fa la differenza dal punto di vista tecnico, o sono altre le salite che scrivono la storia di una grande corsa? No, io credo che ha delle caratteristiche molto particolari, ci vuole una bici leggera, una bici con dei rapporti molto agili. È una salita dove ci vuole testa, gambe e cuore, e collegarle tutte e tre insieme, perché per 40 minuti non ti permette di respirare. Di respirare. La montagna là è la strada che piano viene giù tra i pini e il sole. Un paese. Questo è per te, caro Ivan, è un tuo amico, Mango. Carissimo amico. So che ha scritto sul tuo primo libro, sul tuo precedente libro. La prefazione di questo è di Pier Augusto? Sì. Di due Pier. Siamo Mamma di Pier mia. Bergonze e mio. Ho i brividi. Hai i brividi per me. I primi 10 ascoltatori potranno leggere anche la prefazione di Pier Augusto Stagi dopo la dedica personale di Ivan Basso. Parlami di Mango. Mango è un mio carissimo amico. Ci sentiamo frequentemente. Quando posso seguo i suoi concerti, quando ho ancora più tempo vado magari a vedere le prove o quando sta preparando un nuovo album. Quindi è una persona che ho conosciuto qualche anno fa e l'amicizia poi è diventata sempre più forte. Ho parlato spesso con lui anche di questo libro che è uscito. E niente, è una persona veramente speciale per me. Quindi non sei un rocchettaro come Cunego, non sei per Jim Morrison. No. Mando. Luigi da Cagliari, Mario, provincia di Varese, i primi due, 800-24-0024, numero verde. Buonasera, anzi buongiorno Luigi. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno Ivan. Buongiorno. Ciao. Allora, innanzitutto volevo dirti che noi siamo un gruppo di amatori e stiamo facendo la traversata della Sardegna in bicicletta, siamo dei tuoi tifosissimi e scusa se sentirai un po' di fiatone, ma... riconosci il fiatone di chi sta pedalando. Certo. Fermati però se hai il cellulare, perché è pericoloso andare in bicicletta. Auricolare, non preoccuparti. E innanzitutto volevamo farti in bocca al lupo per il tour e poi una domanda se potevamo. Certo. Come no? Anzi due. Innanzitutto, quale tattica userai per poter sconfiggere Contador? Perché questo noi ce l'aspettiamo. E con quanti chilometri ti presenti al tour? La tattica per battere Contador è molto semplice, cercare di stare, prima di tutto devi cercare di stare a ruota, perché questo è già un problema grosso, e secondo cercare di approfittare di un momento di difficoltà, però è una conseguenza, quindi la cosa importante in questo momento è cercare di portare il miglior Ivan possibile alla partenza del tour, e poi questo io credo che sia sufficiente per lottare, per fare molto bene. Con quanti chilometri arrivi lì? Chiede. Dall'inizio dell'anno più di 20.000. Mario, provincia di Varese. Sì, buongiorno, volevo salutare Ivan, volevo fare anch'io, associandovi. Mi abbassi la radio però per favore, perché sennò sentiamo un casino infernale in cuffia, grazie. Mi associo agli auguri dell'ascoltatore precedente per il Tour de France, augurandoci che Ivan possa tagliare il traguardo nella posizione di testa. E niente, più che altro questo, io l'ho visto personalmente, l'ho incontrato casualmente perché Ivan tra l'altro partecipa a molte manifestazioni promozionali e volevo semplicemente fargli più che altro gli auguri. In bocca al lupo. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie Mario. Marco, provincia di Macerata. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Sono un amatore, sto tornando da una gara, ma senza tante domande tecniche a Ivan volevo esternargli il mio grosso affetto, sono un suo grandissimo tifoso, l'ho sempre seguito nei momenti difficili e sono un suo grandissimo tifoso. Un grande abbraccio Ivan, in bocca al lupo, sei un grande, tieni duro, grande Ivan. Grazie, grande, gentili. Com'è andata la gara? Ma la gara è andata bene, muri fermani, 4 ore 10, 24, 25 di media, contentissimo. Bene. E sono qua, insomma, via. Stavo tornando con la mia famiglia, ho sentito la trasmissione, molto contento di aver parlato con Ivan, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e un grande abbraccio. Grazie, grande, buon Ivan. Rientro, ciao. 800-24-0024, il numero verde. Parliamo ancora un attimo di Contador, cannibale al giro, imperatore buono, ha regalato le vittorie, ha orchestrato la gara, sembrava decidesse giorno per giorno chi doveva vincere. No, non è proprio così, che abbia dominato il Giro d'Italia, su questo tanti io credo amici che... in gruppo poi, no? No, io credo che ha vinto il più forte, punto, cioè non serve fare tanti commenti particolari, io credo che ha dimostrato all'Etna che era l'atleta più forte in assoluto e io credo che questo però non deve così cancellare quello che di buono hanno fatto Scarponi e Nibali, un duello veramente bellissimo per chi era a casa a vedere, perché hanno fino all'ultimo giorno lottato per il secondo posto e io credo che il fatto che abbia vinto Contador, che era nettamente più forte anche per i due avversari diretti che erano Scarponi e Nibali, sia stata una sconfitta, una bella sconfitta, e quindi hanno lottato e hanno dato spettacolo per cercare di insomma, dibattersi a vicenda e arrivare alla cronometro di Milano e non sapere ancora chi era il secondo, credo che abbia portato un interesse particolare a questo Giro d'Italia. Sei d'accordo, Pieraugusto? Sì, io credo che Ivan abbia inquadrato bene la questione. All'Etna Contador ha dimostrato di essere di un altro pianeta. Ad esempio Nibali più di così non poteva fare. Guarda, qua me ne assumo, ne abbiamo parlato. Sì, noi abbiamo di fianco un professionista, adesso sembra di prendere il violino, ma io lo conosco da quando ha 15 anni. Prima non lo conoscevo perché... Poi anzi, una cosa da farti è da un modo sentire. È un modo... Lui si ricorderà, Ivan... mi chiamò il povero Miro Panizza, non so se vi ricordate, grandissimo Miro Panizza, che abitava nella zona di Ivan ed era veramente un tifosissimo, e mi disse un giorno: vieni a vedere un ragazzino, ho un ragazzino che diventerà un campione. Quindi bisogna anche rendergliene merito, perché è stato il primo forse veramente a individuare e a capire le potenzialità, ma soprattutto mi disse: Ivan si differenzia dagli altri perché ha una testa da professionista all'età di 14 anni. Eccoli il punto. Con questo non voglio dire che Vincenzo non sia un professionista. Vincenzo è un grande corridore che ha un motore eccezionale, però secondo me quest'anno è un po' sottovalutato, era convinto di essere già arrivato a puntino e tirato a lucido, in realtà così a lucido non era. Se imparerà nei prossimi anni a qualche segreto che Ivan è generoso e gli sta dando, ad esempio sotto l'aspetto dell'alimentazione e del peso, secondo me è arrivato un po' troppo pesante, e anche un chilo a quei livelli sono dei macigni. Secondo me un chiletto e mezzo, se non anche due, c'era di troppo. Vincenzo è stato bravissimo perché comunque è riuscito intanto a medicare la situazione, è stato grande anche tra virgolette nelle sconfitte, ha riconosciuto il valore dell'avversario con Scarpone, è stato un ragazzo molto intelligente, ha cercato di vincere il giro perché giù dal passo del Giao, quando ha tentato il colpo in discesa, lui poteva benissimo rimanere passivo e difendersi per il secondo posto, arrivava a secondo, e invece ha usato, ha cercato di vincere, e quando uno cerca di vincere ogni tanto capita che puoi anche perdere. Quindi io devo dire che in prospettiva Vincenzo è il futuro del ciclismo italiano. Non dimentichiamoci che è il terzo podio consecutivo che fa terzo al Giro d'Italia, primo al Giro di Spagna, terzo al Giro d'Italia. E Michele Scarpone onora il merito, un premio alla carriera, anche lui aveva bisogno di questa gemma, però sicuramente Vincenzo Nibali costituisce il futuro del nostro movimento, e se saprà far tesoro dei consigli che Ivan gli dà e gli sta dando, diventerà veramente un grande corridore. Certo, come Contador, credo che come Contador ci sia Contador. Ivan? Ma io credo che Vincenzo quest'anno ha avuto anche una difficoltà, che due o tre compagni che per noi sono stati importantissimi nel 2010 sono mancati per problemi di salute in questo Giro d'Italia. Questo chiaramente ha portato la squadra ad avere uomini in meno, comunque meno forti rispetto a quello che avevano l'idea che avevamo alla partenza. Io credo che nel complesso, comunque, come ha detto Pier Augusto, Vincenzo ha fatto il terzo podio consecutivo per un atleta della sua età, io credo che sia un risultato eccellente, e credo che sicuramente il Giro d'Italia è solo questione di tempo. Il percorso che è stato un po' criticato nell'ultima settimana, troppo duro, i velocisti che se ne sono andati, qual è stata la tua valutazione da fuori? Ma la mia valutazione personale è: un giro duro a me piace. Questa è stata una delle i motivi che mi hanno portato a rinunciare al giro, non i motivi, ma le cose che mi hanno fatto soffrire di più per la rinuncia al giro, era che è un percorso sicuramente molto bello, un percorso duro. Tenete presente che i percorsi sono duri anche per come i corridori li interpretano, perché se i corridori sono stanchi non fanno la prima ora 50 di media, vanno più piano, e quindi io credo che sicuramente durissimo, però a mio parere personale era che era un percorso sicuramente molto bello. Dunque, un sacco di messaggi, tra l'altro, come Roberto che sta tornando dalla Valle d'Aosta e questa mattina ha fatto per la terza volta il Colle San Carlo da Morgé. Sono contento di essere arrivato in cima tutte le volte, ma come diavolo ha fatto Ivan nel 2006 a farlo in 35 minuti? Pedalando. Adesso non ricordo il tempo, quanto ci ho messo, però sicuramente con tante ore di allenamento. Adesso dobbiamo fermarci un attimo, breve pausa, subito dopo riprenderete a parlare con Ivan Basso. 800 24 00 24 è il numero verde, e ti lascio, Ivan, con questo messaggio di Omar da Bologna. Da tuo tifoso preferirei vedere un basso giù dal podio, ma sempre all'attacco, che un terzo posto a ruota dei due mostri. Ti lascio questa. Ma, intanto cominciamo a partire, poi dopo lo vedremo strada facendo. Io credo che sicuramente sempre a ruota, non stai sempre a ruota, perché comunque o ti staccano o provi a staccarli, quindi io credo che bisogna correre con attenzione e non, voglio dire, arrivare come il discorso che si faceva prima per Scarponi e Nibali, essere battuti da Contador non è una sconfitta. Ha vinto il corridore più forte e, come ho detto, a mio parere il duello dietro è stato bellissimo. Udine, Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Volevo fare una domanda tecnica, Ivan. Prego. Io sono un ciclo amatore, ho un'idea di fare un acquisto, ma non so se vale la pena. Il Gold Race, questo nuovo movimento centrale che ha usato Cancellara l'anno scorso, che dovrebbe far guadagnare chissà quanti chilometri, o se lo usa anche lui, sapere se lo usa Ivan o se ne sa qualcosa. No, guarda, sinceramente mi trovi impreparato, perché noi abbiamo movimento BB30 e quindi non sinceramente non so nemmeno di... Mi fai fare una brutta figura, perché non so di cosa stai parlando. Non è il motorino, non è il motorino, il famoso motorino. Mi trovi veramente impreparato in questa cosa. Quindi, ah, ok. Filippo, sorry. Sì. Sorry. Non importa, no, al limite ci provi, non lo compro, poi... che costa tanto. sì, meglio risparmiare, va, meglio risparmiare. Comunque, per quella che può essere la mia esperienza, dopo 27 anni che corro, dei movimenti centrali che fanno guadagnare... Quelli delle gambe? Che contano sono le gambe, basta. La centralina, la testa. sì, testa, gambe e cuore è l'unica tecnica per andare forte. Grazie, okay. Filippo, grazie. Simonetta, grazie. Poi Barbara, Simonetta, visto, Ivan, arrivi tu, chiamano le signore, di solito io solo uomini, sì. Lui lo sa, Piero Augusto lo sa, che Dario Ricci. Sì, faccio ogni tanto, faccio la voce in falsetto per, bravo, per consolare. Grande. Simonetta, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Ivan, complimenti. Grazie. Volevo sapere l'importanza che ha avuto una persona come il professor Aldo Sassi nella tua vita, grazie. Ma... Aldo è una persona che mi manca tantissimo, una persona che ha saputo cogliere dentro di me veramente quello che ero come uomo e come atleta. Mi è stato vicino in un momento difficilissimo della mia vita personale e professionale, e poi quello che è successo è stata una cosa veramente dolorosa, però Aldo è sempre nel mio cuore e resterà sempre nel mio cuore. Barbara da Bergamo. Buongiorno a tutti, felicissima di parlare con Ivan, emozionatissima. E con me no? Indubbiamente. Sto scherzando, Barbara. Sono molto emozionata, scusate. Volevo sapere da Ivan, nella carriera comunque di un atleta, di un campione come lui, ecco, appunto, ci sono stati dei momenti difficili. Vorrei sapere qual è la spinta che riesce a trovare Ivan per andare avanti, per non mollare mai, per dire sempre Ivan ce la puoi fare. Un in bocca al lupo grandissimo, un abbraccio. Grazie. Ma perché la correre in bicicletta a me piace molto, è proprio, era il mio gioco preferito da bimbo, come ho raccontato nel libro, è diventato sempre di più la mia professione, chiaramente in questo momento è proprio nel pieno della mia carriera, però resta comunque il mio gioco preferito e quindi lo faccio con grande amore. Sì, però Ivan, quel giorno che sei andato via dal Tour, il giorno prima che iniziasse la corsa, io immagino i giorni successivi siano stati tremendi, forse anche quel gioco non, per qualche giorno magari non ti interessava più. Ma sicuramente, ma non tanto, la mia preoccupazione più grande era per mia moglie, avevo una bimba, un bimbo, i problemi erano più pensando a loro che non a quello che poteva succedere a me, no? Dopo, chiaramente, in quei momenti devi avere la fortuna di incontrare le persone che non, quando ti vedono ti sanno dare dei consigli, ti stanno vicino. E poi tutto passa chiaramente, quello che è stato lascia un segno indelebile, però ti fa sicuramente crescere, ti rende una persona migliore, la mia famiglia, il rapporto con mia moglie è ancora più solido dopo quel periodo così negativo. E quindi, come racconto appunto nel libro, anche dai momenti difficili si può poi cogliere qualcosa di positivo. Prima di Carlo da Pavia, mio concittadino, ti faccio un'altra domanda difficile invece. Non ti ha fatto rabbia questa differenza di trattamento che c'è stata con altri corridori? No, perché le mie responsabilità erano molto chiare. Però dire pago io e gli altri? No, ma trovo che è un ragionamento sbagliato, perché innanzitutto io non conoscevo la posizione degli altri, quindi poco mi consolava sapere quello che poteva riguardare altre persone. Io ho trovato veramente la tranquillità quando sono stato fermato, sono stato squalificato, perché finalmente finiva quel momento di così dove eri sempre a metà strada, non sapevi mai quello che poteva succedere domani. Invece così trovi una serenità interiore, sai che oggi inizia, finisce, hai una data dove finisce la tua pena e puoi tranquillamente rientrare e ritornare a fare quello che facevi prima. Senti, Piero Augusto, dobbiamo andare anche noi, anche Dario, a lezioni da Ivan Basso, lezioni private di... No, attenzione. Di coscienza zen, sì, perché avere la sua saggezza. No. Anch'io ho avuto... grigi o la barba grigia, insomma, però avere la sua saggezza. Non è così. Eh? Sicuramente è chiaro che sono stato in parte bravo anch'io per uscire da questa situazione, però... ci sono persone che sono state veramente importanti in questa vicenda, che mi sono state vicino, e chiaramente loro sanno che non sono a quel tempo non ero tranquillo come lo sono 2 anni o 3 anni dopo. Senti, ma questo punto interrogativo, grande punto interrogativo che c'è sulla vicenda Contador, in attesa di queste decisioni, queste sentenze, rimane nei pedali nel momento in cui c'è la sfida diretta in montagna, in cui ci sarà, cioè, nella vostra testa, ecco? Quanto ma io credo che quando uno, sono due cose completamente diverse, perché chiaramente io sapevo benissimo di avere delle responsabilità in quella vicenda, e quindi è chiaro che pedalavo con delle nuvole nere sopra di me, perché ero comunque in attesa di squalifica. Per quanto riguarda Alberto, lui è innocente, lui dice che non ha fatto nulla, e quindi chiaramente lui è perfettamente tranquillo, ed è giusto che sia così. Carlo Pavia, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto tanti auguri a Basso per il prossimo tour. Guardi, auguri, lo dico anche agli altri, auguri non si dice, perché sennò qua continuiamo a fare gli scongiuri tutti quanti, e siamo qui in studio, di là in regia. Si dice in bocca al lupo. Bocca al lupo. Ok. Volevo chiedere una cosa po' di tipo tecnico. Partecipare al Giro d'Italia e al Tour nello stesso anno è difficile per un problema di recupero fisico, o vi sono anche altre problematiche? E io mi associo aggiungendo uno dei miei grandi interrogativi. Ne abbiamo parlato con il presidente Squinzi nel corso del Giro d'Italia. Ci diceva: Contador ha questo sogno di vincere tutte e tre le grandi corse a tappe in una sola stagione. Io continuo a pensare che non sia possibile. Io poi quando lo vedo ci credo, come San Tommaso. Ivan? Ma dipende da tante cose. È chiaro che vincere tutte e tre le grandi corse a tappe entri nella leggenda dello sport, non del ciclismo, e quindi, però è altrettanto vero che vincere 6 corse a tappe su 6 da 3 settimane, anche quello è un risultato che ha dell'incredibile, no? Quindi io penso che in questo momento l'unico atleta che può permettersi di pensare a un risultato del genere sia Contador. Professor Stasi, si è ammutolito? Non la sento più. Si è addormentato. No, scusa, stavo ascoltando pensando? Il verbo. Io credo che sia molto difficile, perché tra l'altro il calendario si sta sempre più avvicinando. Ad esempio, anche il prossimo anno, e pochi hanno guardato, io ho già guardato un po' le date del 2012. Sei avanti. Sono proiettato, perché sai, sta preparando il prossimo anno addirittura il Tour de France non partirà ai primi di luglio ma alla fine di giugno, e si avvicinerà sempre di più al Giro d'Italia, quindi c'è sempre meno tempo per recuperare, e anche la Vuelta sarà più avvicinata. mi sembra una cosa incredibile, però è anche vero che, come dice Ivan, Alberto sta già facendo delle cose incredibili, che lo fa con una naturalezza, una semplicità che sembra quasi che stia scherzando. Non scherza assolutamente, perché la bicicletta è dura ed è dura anche per lui. Certo, lui ha, quando uno ha classe, se si dice così, anche il colpo di pedale sembra un gioco, no? Lui saltella, danza sulla bicicletta. L'unica cosa che io terrei, colgo l'occasione, io faccio tutti i complimenti ad Alberto, ma non dite che Alberto ricorda Pantani in salita. Per favore, non ditelo. Senti, Pantani era un'altra cosa. Sono d'accordo. Io vorrei farti una domanda su Pantani. Cos'è stato per te, da giovane corridore, quando hai iniziato, Marco Pantani? Cosa rappresenta? Cioè, è stato un campionissimo, è stato un uomo fragile, è stato un truffatore, è stato un eroe, è stato un uomo tradito. Cos'è stato? Come hai visto Marco Pantani? Pantani, io mi dispiace molto di non essere riuscito a correre con lui, perché quando io sono passato professionista lui era agli ultimi anni, forse l'ultimo anno che ha fatto le ultime corse. Questo è stato uno dei dispiaceri di non aver potuto correre con lui. Pantani è il ciclismo italiano tuttora, perché quando noi... spesso capita che durante il Giro d'Italia o anche durante gli allenamenti ti gridano vai Pantani, e questo ti fa capire che Pantani è nel cuore della gente. Pantani è esattamente nel cuore della gente come quando toglieva la bandana e staccava tutti in salita, non pochi secondi, non rientrava, cioè, tanto per dirlo, Contador all'Etna ha fatto tre scatti e poi è arrivato con Ruano. Pantani non sarebbe arrivato con nessuno. Sì, no, lo so, ma è un discorso che abbiamo fatto mille volte, no? E poi sai che questa è anche una delle poche cose che mi fa incazzare veramente, cioè quando poi cominciano a telefonare e dire ma andava forte perché? No, andava forte perché era un fenomeno. Tutti facevano così. Andava forte perché era un fenomeno. E quindi comunque erano tutti a parità di ottani. Come anticipato voglio far sentire soprattutto a Ivan Basso, e magari a Pieragusto Stasi qualcosa ricorderà questo. Siamo ormai in prossimità dell'ultimo chilometro, Albo d'Oro incredibile, questo è il trofeo comune di Gussago, medaglia d'oro, testa a testa, testa fra Valentino China e Ivan Basso, testa a testa è volata, Valentino China, bellissimo, testa a testa da parte di questi atleti, un Valentino China scatenatissimo. Sì, la volata l'ho fatta bene, però contro di lui c'è poco da fare in questi arrivi. Mi va già bene così per oggi. Sì, adesso oggi ho corso così, domani corro là in zona vicino a casa mia. Speriamo di far meglio. 1994. E Valentino China, che chissà dove è adesso, 2 anni da professionista, poi non so dove sia finito, che ha battuto Ivan Basso. Ciapa lì. Valentino China, campione del mondo a San Marino Juniores. Te la ricordavi? Il ragazzo c'era. No, così è passato qualche anno, ma questo... La voce era di Silvano Rodella, tra l'altro mandiamogli un augurio, è stato operato ieri. Molto volentieri. Tanti auguri anche a Rodella. Ma sono le gare che per arrivare ad essere un professionista affermato sicuramente c'è stato un percorso molto lungo e questo è una testimonianza, cioè una testimonianza che gli atleti che comunque corrono da tanti anni e tutti gli anni hanno saputo dare delle dimostrazioni con dei risultati sono nel tempo uno può solo che migliorare e continuare a fare. Com'è che la bici era il tuo giocattolo preferito, però chissà quanti sacrifici da ragazzino. Sì, però... A cosa hai dovuto rinunciare da ragazzino? Ma non lo sai, perché sei ragazzi, lo scopri poi cosa hai rinunciato. Però devo dire che rifarei tutto, perché comunque alla fine quello che la bicicletta mi ha dato è molto di più di quello che io ho dato a lei. Perbacco. Andrea Davarese, Gianni da Vicenza. Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, 2 domande. Una sul libro che ho appena scritto, che è uscito ieri, l'ho divorato, splendido, toccante, e allo stesso tempo mette la carica. L'hai scritto nei ringraziamenti, Francesco Caielli è riuscito a fissare alla grande sulla carta quello che sono stati i pensieri e le parole. Tanti complimenti a lui, com'è stata la fase di scrittura insieme a lui? Seconda domanda, controvento e in salita, ecco, a casa tua in provincia di Varese e poi in giro per il mondo, quali sono le tue salite preferite e se c'è un segreto particolare per affrontarle? Ma allora, la prima domanda, abbiamo dedicato molto tempo insieme, siamo stati praticamente da settembre-ottobre dello scorso anno fino all'inizio di questa stagione, tantissime ore insieme, poi un confronto settimanale per cercare di chiudere nei tempi previsti. Chiaramente bisogna dedicare molto tempo perché pensare molto, scrivere molto e poi cercare poi... fai la brutta copia e poi cerchi di mettere le cose bene per cercare di dare al pubblico, e sono felice che hai colto quello che io volevo raccontare in questo libro. Per quanto riguarda le salite, sono nella provincia di Varese, io le mie due salite preferite sono il Covignone e il Campo dei Fiori, sono le due salite che io faccio abitualmente, dove ho tutti i miei riferimenti, i miei tempi e quindi sono anche le più allenanti sicuramente. Gianni, Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Scusi un po' l'emozione, saluti ad Ivan. Senta, io ho sempre davanti agli occhi quell'immagine di Basso che vinceva con la foto del figlio. Ah. E poi il risultato... Poi è successo quello che è successo. Capito? E il mio idolo è Simoni, perciò... Lei ha mai chiesto scusa a Simoni? Sicura, gliel'ho chiesto centinaia di volte, però non sono state accettate. Io ho dichiarato più volte pubblicamente di aver sbagliato quel giorno. Ho sbagliato per un motivo molto semplice, perché non ho avuto la lucidità di fare quel gesto che era giusto fare per un atleta che ormai aveva già vinto il Giro d'Italia. Io credo che a livello sportivo è un errore gravissimo che ho commesso, però lei deve capire che ci sono delle persone che è sufficiente dare delle spiegazioni e chiedere scusa, e delle persone che tu chiedi scusa più volte vengono rifiutate, e a un certo punto poi... Non lo racconto anche nel libro, io sono sempre pronto a chiarire questa cosa, però capirà bene che non è bello sentirsi rifiutati tutte le volte, no? Quindi io l'ho chiesto più volte pubblicamente, personalmente, utilizzando anche così amici e comuni, però non c'è stato verso, quindi pazienza. Chiuso. Edoardo, Milano. Ciao Ivan. Buongiorno, ciao. Sono un tuo grandissimo tifoso, ti seguo, guarda, da quando hai cominciato a correre, anch'io ho cominciato a correre in bicicletta proprio guardandoti battere Armstrong al Tour del 2004. Ti volevo chiedere, da quando corri, qual è stata la vittoria che più ti ha emozionato, ti ha lasciato dentro qualcosa di importante? Ma io credo che tutte le vittorie sono belle, in ordine di tempo lo Zoncolan e il Giro dell'anno scorso sono quelle più belle, però cerchiamo sempre di pensare che la più bella è quella che deve arrivare, no? Una domanda per Dario Ricci, una per Augusto Stagi. Ivan, guardando il percorso del prossimo Tour, quale può essere il momento chiave, la tappa chiave? Aspetta, aggiungo, già che ci siamo, 12ª tappa c'è il Tourmalet, 13ª l'Aubisque, 14ª l'Agne, 17ª c'è il Sestriel, 18ª Col d'Agnelle, Isoar e Lautaret, 19ª Galibier Alpe d'Huez. Quale fa più paura? O quale personalmente a me fanno sempre decisiva? Meno paura quelle di montagna che non quelle intermedie di pianura. Il Tour è una corsa difficilissima, partiamo subito con una tappa molto difficile e da una regione molto difficile dove c'è parecchio vento, quindi ci sono una graduatoria delle tappe, chiaramente, no? Quelle di montagna presentano già delle difficoltà proprio sulla cartina, però quelle per uno passista scalatore o scalatore come me ho molti meno problemi a pensare a quelle tappe che non a quelle intermedie, quindi il Tour va corso giorno per giorno con attenzione, con la squadra sempre uniti, sempre davanti, devo essere ben protetto dai miei compagni e poi quando arriveranno le montagne tocca a me. Per Augusto, sei d'accordo che il Tour de France si deciderà col Galibier l'Alpe d'Huez? 19ª tappa. Io credo che non sono totalmente d'accordo che sia quello il giorno decisivo. Io sono convinto che il primo arrivo in salita di una grande corsa a tappe dia il primo segnale importante e poi sicuramente nell'ultima settimana si aggiustano le posizioni, però il primo arrivo in salita è quello determinante. Si è visto anche in questo Giro d'Italia. Di queste salite qual è la più complicata, Ivan, tecnicamente? Quelle del Tour? Pirenei o Alpi? Tourmalet o Bisque o Alpe d'Huez o Galibier? È difficile fare una... Quale ti emoziona di più allora? Credo la tappa che viene in Italia per una questione proprio di... Così... vai ad abbracciare il tuo pubblico, quindi sarà un'emozione particolare quel giorno. Mettiamo la bandierina? Eh? Mettiamo la bandierina? No, mettiamola a Parigi, speriamo. No, io sono... No, muoio dalla voglia francamente di vederti lì. Volevo chiederti ancora una cosa, anche perché siamo in chiusura. Che cosa ti ha insegnato Lance Armstrong? Se ti ha insegnato qualcosa, quegli anni in cui hai pedalato con Lance Armstrong, cosa ti hanno insegnato, cosa ti hanno lasciato? Mi ha lasciato la cosa più importante, quella che aveva una convinzione che io non ho mai visto in nessun altro atleta. Lui veramente quando voleva ottenere un risultato... Come si avvicinava al tour, come preparava il tour, come aggrediva le salite, come era protetto dalla squadra, come gestiva anche chiaramente dall'ammiraglio al direttore, però anche l'atleta in corsa poi ha il suo compito nella gestione dei compagni di squadra. Quindi io credo che sia stato un esempio da quel punto di vista, sì. Senti, ci racconti il tour per radio allora? Hai deciso? Sì, sicuramente. Speriamo di raccontare delle belle cose. In corso di tour avremo, sceso dalla bicicletta, Ivan Basso ce lo racconterà. Pensate un po'. Anche per Augusto Stagi, però, no, ce lo racconterà. Basta che non mi fate salire in bicicletta. No, lui racconta e tu pedali. Siamo d'accordo. Vabbè, allora avete proprio azzeccato i ruoli. Perfetti. Io credo che è una cosa molto bella che gli ascoltatori possono avere tutti i giorni delle informazioni. Così proprio dal diretto interessato di come sta andando l'avventura francese. Magari dalla maglia gialla, chi lo sa. Porco, non dirle queste cose, non dirle. Mani sotto al tavolo, tanto per fare la cronaca, che ognuno si abbandoni allo scongiuro che preferisce. Le mani stanno andando in ogni dove. Ragazzi, chiudiamo così. Ivan, grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio. Piero Augusto Stagi, alla prossima. Dario Ricci, grazie, a Carlo. Prestissimo naturalmente. Per quanto mi riguarda, invece, ci sentiamo domani pomeriggio alle 2 con Palla Spicchi, era di playoff, epoca di playoff, stagione di playoff, naturalmente ne parleremo. E poi con ogni probabilità anche domenica, questa è un po' una sorpresa, avevo aggiornato la seduta domenica scorsa alla ripresa del campionato, invece domenica dalle 4:30 alle 7 saremo di nuovo qui, anche perché le esigenze di una cronaca molto meno divertente di questa ce lo impongono. Dunque domenica dalle 4:30 alle 7 torneremo a parlare insieme. Intanto a domani.